24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Alino, sai cosa? Adesso scrivo lettera al sole per lamentarmi della tua trasmissione. Scrivo Squinzi. Va bene. No, sei un cioccapiatti. Poi lo scrivo, glielo scrivo Squinzi. Ebbene sì, siamo qui anche il primo maggio, è il primo maggio, festa del lavoro, e allora noi siamo a lavorare, sono le 6:33 minuti, voglio salutare la nostra Miriam Lucchetti in redazione, anche lei qui a lavorare, primo maggio anche per lei, voglio salutare il nostro alpino Peter Bescapè, ma gli alpini sono 365 giorni attivi, 366 gli anni bisestili, e allora anche lui oggi è qua. E con noi a lottare fino alle 9 voglio salutare anche i miei eroi del mercoledì, lo facciamo subito dopo l'apertura del nostro Parlamento, che oggi apre anche il nostro bar aperto, c'è anche Nicole Minetti, ma tutti qua al Parlamento, aperto anche oggi, serrande su. Abbiamo barman generosi come Santa. E allora voglio salutare i miei due eroi che mi accompagnano, grazie sentito davvero oggi, a Paola Saluzzi, buongiorno Paola. Ma buongiorno, buon primo maggio e buon mese di maggio. Ma che fai, lavori? Lavoriamo, lavori, Sky G24 pomeriggio operativo, 2 ore di diretta dalle 15:05 sempre. Ecco, di che parli oggi? Politica e lavoro. Politica e ce n'è di che parlare, perché oggi noi festeggiamo il lavoro lavorando, ma inutile dirlo, sembrerà pure banale. Come dire, accendere una candela a San Giuseppe lavoratore, visto che oggi è, da un punto di vista di chiesa, è la sua festa, perché insomma c'è tanta gente che non festeggia nulla. Politica e lavoro. Mi verrebbe da fare una battutaccia, fa politica e lavoro. Facciamola. Ma è questo ossimoro, politica e lavoro. Ossimoro, che meraviglia, Milan. Si dicono ancora queste parole. Puoi tornare. Che meraviglia. Puoi tornare anche a letto a questo punto. Va bene, adesso Luca Dini l'abbiamo chiamata, ha risposto, è entrata la segreteria, sono quelle cose che si sarà scaricato il cellulare mentre rispondeva. Comunque adesso arriva il direttore di Vanity Fair, Luca Dini, che oggi c'è una copertina proprio per la nostra Paola Saluzzi. No, voglio saperla subito, no, a tutte le ascoltatrici e ascoltatori notare l'ordine. L'ho detto, sì, certo. In onda vorranno sapere. Ma a parte se ne vanno a comprare i Vanity Fair. No, sì, vabbè, devi aspettare. È un attore italiano, però è anche adesso produttore. Non è sposato, sta con un'attrice italiana molto famosa che ha fatto un film. Vabbè, adesso sta. Comunque. La tua crudeltà è nota. Fammi salutare Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Luca, buongiorno. Buongiorno. Il nostro eroe anche lui qui sveglio. Stavo facendo il quiz su chi fosse la copertina di Vanity Fair a Paola Saluzzi, ma non gliel'ho ancora svelato. L'ho detto, un attore, produttore, sta insieme a un'attrice famosa, anche regista adesso. Vabbè, ma te lo dico dopo. Andiamo con ordine, perché insomma, vogliamo parlare di politica, insomma, queste robe qua. L'IMU, siamo sempre... Voi avete pagato l'IMU? Luca Dini, tu attendi? Certo. Tu Paola hai... Sì, ebbene sì. Casali, terreni... No, guarda, io vivo nella mia magione di 48 metri quadri. Sì. E quindi ho pagato l'IMU, felicemente l'IMU della mia magione. Io dico, se dovesse cadere il governo su questa storia dell'IMU, veramente facciamo la figura del cioccolataio. Ma guardate che sui giornali pare che Enrico Letta, il premier, sia infastidito e nervosito da questa cagnara senza senso, così Repubblica dice, perché Berlusconi ha detto adesso c'è il giallo dell'IMU, allora va tolta, va restituita. Al PD dicono non abbiamo mai detto che verrà restituita. Il ministro dell'economia Saccomanni dice guardate che restituirla non ci sono i soldi. Ma non si... Berlusconi dice così cade il governo. Sentite Brunetta, eh? Beh, se ci sarà l'abolizione noi continueremo a sostenere il governo. Se non ci sarà l'abolizione non ci sarà il governo. Luca Dini, semplice, no? Ragionamento fila, dice o così o così. Deve cadere sull'IMU questo governo, no, dai. Spero che cada su cose più, insomma, per motivi più seri, anche perché, insomma, il problema mi sembra che sia la copertura finanziaria, cioè. Ma sì, ma dove poi trovano i soldi? Ma poi c'è, cioè, non lo so, tutta questa cosa, non lo so. Tu, Paola, l'hai capita questa cosa? Perché siamo impiccati all'IMU, per carità, tassa odiata dagli italiani. No, ci sono cadute le difese immunitarie, immunitarie. Questa è orrenda. E a Roma si potrebbe anche dire l'Imurte. Ma io ieri ho scritto i muso cazzi vostre, se per questo. Cioè, però esatto, perché tu frequenti troppo poco la capitale, perché qua l'Imurte è un modo di dire, come dire, vabbè, insomma, tornando a cose ben più serie, certo, è chiaro, è un ragionamento che riguarda da una parte una posizione politica ben precisa e, dobbiamo dire, ampiamente dichiarata da parte del PDL fin dall'inizio, dall'altra una promessa fatta sulla quale non tanto la restituzione, cioè si è detto si sospende per giugno e poi si vede. Io credo che, al di là dei grandi rumori intorno all'IMU, si dovrà procedere tutti un passo alla volta, tutti, perché sennò qui il passo successivo siamo come Billy il Coyote, c'è il Canyon che ci aspetta. No, è chiaro, ma io non lo so. Cioè, poi il giorno in cui Enrico Letta parte, va dalla Merkel a parlare di cose serie, lì già sono ci vuole sviluppo, e quella ci vuole rigore, ci vuole sviluppo, ci vuole rigore, ci vuole sviluppo, no, ci vuole più rigore. Ecco, sì, ma mi dico rotto pure quella, insomma, brava donna. Ma... Vabbè. E noi ci presentiamo in Europa con questa, non so, cagnara sull'IMU, e vabbè, questo è dato di fatto. Vi voglio oggi, però, non voglio parlare tanto di politica, vogliamo parlare di cose un po' diverse. Allora, intanto, vabbè, vi faccio sentire questa di Piero Grasso, il presidente del Senato, giusto per scherzare. Ieri c'era la dichiarazione di voto, 2 minuti a testa. Sentite Piero Grasso che allo scadere di 2 minuti spengono i microfoni ai deputati, anzi ai senatori. Allora, nel momento in cui solo una forza politica governa, non si tratta più solo di governo. Prego, concludo. 3 minuti sono scaduti, mi spiace. Sentite Grasso. Il merito non viene riconosciuto. Cioè, gli tolgono la voce. Beh. Non viene riconosciuto il... Troppo, tempo è scaduto. Tempo mi scaduto. Non è possibile, guardi, abbiamo tempi strettissimi. Avanti, tutti possono che aiutare parla. Le piccole e medie imprese italiane, rendere efficiente la rete di Via. Mi spiace. Ci auspichiamo che il suo governo cambi direzione. Via. Tempo è scaduto. Tempo è scaduto. Tutto così. Luca Dini è stata una seduta tutta così. Tutti via. Tempo scaduto. Bravissimo. Sì, bravissimo. Questi politici. Non li faceva parlare. No, voglio dire, il procuratore nazionale antimafia, non è che stiamo parlando di. Era un po' contrito all'inizio. Mi spiace. Poi dopo ci prendeva gusto. Basta. Tempo scaduto. Devo cominciare a farlo pure io, Alessandro. Esatto. Basta. No, ma non andiamo a minuti, ovviamente. Tempo scaduto. Allora, vi posso chiedere che ne pensate dell'espulsione del senatore Mastrangeli al Movimento 5 Stelle, perché va troppo in TV, soprattutto da Barbara D'Urso, che già questa è una condanna. Già questa è una condanna. Ma... Oh, mamma mia, no. Ma sì, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Luca, tu che ne pensi? Ma guarda, premesso che la parola espulsione non mi piace, devo dire che anche lì... le cose erano chiare fin dall'inizio, insomma, quindi come dire, se l'è cercata un pochino. Un po' se l'è cercata, sì. Sì, c'è da dire che tu, Paola, che ne pensi? Perché Mastrangeli ha detto non accetto questa cosa, andrò a spiegare a tutti in TV i miei motivi, quindi vabbè. No, noi ieri l'abbiamo avuto certo. in un appello che francamente faceva da una parte tenerezza, e dico tenerezza perché quest'uomo si scusava come se avesse... ammazzato i papà e la mamma, anzi adesso che ammazza i papà e la mamma fa altre cose, ma voglio dire, ancora non si scusa nemmeno, proprio si scusava in una maniera così accorata che mi è sembrato un perfetto esercizio, da un lato di applicazione, diciamolo, un po' bovina di una regola che sicuramente si è accettata, dall'altro le regole si accettano e poi in una democrazia si discutono. Cioè si aprono paragrafi sotto le regole, però, no? Però loro vogliono fare i duri e puri. Sì, su vabbè, cosa. Ma per piacere, sono un esercizio di antidemocrazia a livello proprio stratosferico. No, è pazzesco, sì, è vero, Paola. Detto questo, nessuno lo può espellere dal Senato. Dal mandato. No, no, questo no, questo no, quindi fa andare il gruppo però, Misto. Poverino, espulso, sembra la particella d'acqua, quella che diceva, c'è nessuno, e perché se ne vaga da solo senza il suo gruppo. Ma sì, ho capito, però c'è le regole, io devo dire, le regole sono quelle, non mi piace anche a me l'espulsione, cioè, però le regole sono quelle. Io personalmente se... vorrei vedere invece espulso al Senato quello che non si è alzato per... Bravo! L'onorevole Iannuzzi, tra l'altro c'è lui, vergogna, lui e madre, sono madre e figlio al Senato, è quello che c'è anche la madre. Non si è alzato quando c'è stato l'applauso al brigadiere Giangrande, che ricordiamo ancora gravemente ferito, rischia la paralisi. E non si è alzato perché ha scritto su Facebook: non prendo parte a delle, cos'è che ha detto? A delle pagliacciate. No, non delle pagliacciate. No. Delle... Ma io ma vi rendete conto? Ma il pagliaccio è lui, veramente. Sì, una cosa, ma no, una roba disgustosa. Ma io vedi come è educato il direttore, il pagliaccio. Io invece con gergo militare dico culo di pietra. Cioè quelli che proprio non riescono neanche a pensare, perché non vogliono partecipare ad una manifestazione che trovano ipocrita. Intanto ti alzi in piedi, proprio ti alzi in piedi, ma scatti come se ti avessero messo un puntellino. Sì, no, ha detto non voglio partecipare a manifestazioni di facciata, ma di facciata di che? Ma per piacere, che... ma ne avrei da dire, ma insomma, sì, oggi sulla faccia, troppo, sulla faccia soprattutto. Vabbè, oggi è il primo maggio, l'abbiamo fatta svegliare, è troppo cattiva. A proposito di questo, allora devo svelare la copertina di Vanity Fair. Così, perché è Riccardo Scamarcio che sta con Valeria Golino. Evviva! No, perché sta con Valeria Golino, che tra l'altro ha fatto questo film, esce credo proprio oggi, sul suicidio assistito. Credo proprio che andrò a vederlo. Ma perché mi fa introdurre il discorso della bellezza, che oggi è molto affrontata in varie sfaccettature sul numero di Vanity Fair, caro Luca. Voi intanto mi hai fatto un colpo basso, mi avete intervistato Alessandra Moretti, anch'io ogni tanto... Lo confesso, ho un debole clamoroso, insomma, vergognoso proprio. Esponente del PD, spesso anche nostra ospite, veramente bella, cioè, possiamo dirlo, sì. Luca? Sì, devo dire, cioè, a me aveva colpito questi giorni perché avevo sentito molti commenti molto cattivi nei suoi confronti. E per carità, i suoi comportamenti, le sue dichiarazioni di voto, tutto è discutibile. Però io stava con Bersani, era la portavoce di Bersani alle primarie, sì. E poi ha votato a scheda bianca quando assolutamente quando, no? però guarda, in Italia essere una donna per giunta anche insomma guardabile continua ad essere un problema in politica. Vabbè, l'hanno intervistata tu, Paola Saluzza, è un debole. La Moretti ha una bellezza rinascimentale. Cioè, se tu la vedessi in un quadro di Botticelli, è bellissima, è veramente bellissima, ed è una donna molto, molto, molto in gamba. È solo che c'è la copertina di Scamarcio, e quindi bello, bello, e si sa. C'è l'intervista a Alessandra Moretti, è bella, ma invece c'è una storia che mi ha molto colpito. Proprio l'avete accostata, quella di Alessandra Moretti, di una donna che in America ha perso il lavoro, un lavoro anche prestigioso. Perché? Perché non era più bella, nel senso, non era più come quando aveva 30 anni, no? Negli anni un po' sfiorita. E chi è questa donna, Luca? E com'è possibile che esistano ancora queste cose? È caduta la linea. Beh, si tratta di Margarita Aguilar. Assunzione era al museo del barrio di New York, che non essendo più bella, non portando più i tacchi a spillo con la stessa capacità. Ma sai, Alessandro, l'America è quella terra dove, e questo basta leggere da Lettrice accanita di Vanity Fair, insomma, basta leggere le dichiarazioni di attrici che dicono arrivi a 50 anni, che non sono i 50 anni di, non so, di 30 anni fa, sì. Questo è ovvio, e non trovi più ruoli. Non dimentichiamo che è una bellezza conclamata, oltre che per motivi di bellezza, anche di grande personalità, come Isabella Rossellini, arrivata ai 45, mi sembra, 42, 43, 45 anni, si vide con grazia sottrarre. Però io capisco, cioè, il caso che tu fai, cioè, ci sono dei lavori in cui la bellezza o la presenza fisica, ma vale lo stesso principio per altri, per vale lo stesso principio, beh, però la rappresentatività, ed è una cosa illogica, non però è interessante il discorso da approfondire. Facciamo così, perché mi ha recuperato Luca Dini, andiamo al traffico, la nostra segreteria telefonica, e poi voglio ripartire da questa. È possibile ancora perdere per una donna, per mancata bellezza, il posto di lavoro? È successo in questa storia che racconta Vanity Fair a New York. Sì, Il gioco d'azzardo, da cui ha sviluppato una grave dipendenza patologica il soggetto che ha sparato a Roma, è monopolio dello Stato, il quale apre sale da gioco per ricavare tasse e profitti. Ecco la grave responsabilità dell'atto. Lo Stato che incita al gioco pericoloso, patogeno, e non i cattivi maestri. Io direi che il gesto che è successo di quel signore che ha sparato è solamente il frutto dell'esasperazione per l'assenza totale dello Stato e delle istituzioni vicino al cittadino. Non c'è nulla per la famiglia, chiamò solamente delle entità preposte a pagare tasse e imposte. Stefano da Roma, Gianni Letta ci ha letto la sua letterina, anzi una delle letterine che scriveva Babbo Natale, con tanti sogni, tanti desideri. Invece purtroppo il risveglio sarà duro, ci sarà lo zio. Ui, Enrico, sveglia, è Natale, piedi a terra, le cani non ci stanno per nessuno, hai capito? Siete veramente un disco rotto con questa storia di Berlusconi, basta, non se ne può più. Siete pietosi, veramente pietosi, basta, basta, vergognatevi. Mira, vada via il sei uno schiavo della casta. Sono uno schiavo della casta, ecco Paola Saluzzi, l'invito era chiaro, abbastanza chiaro, ma vada via il cul. Sì, quello si capisce in tutta sì, Italia. Tutta Italia. Allora, Luca Dini, è possibile ancora, questa storia la raccontate, perdere il lavoro per una donna perché non si è più, diciamo così, piacente come quando il lavoro lo si è guadagnato a 20 anni, a 30 anni? La storia è un po' incredibile, però. Sì, è successo a questa Margarita Aguilar, direttrice di un importante museo di New York. La cosa più due cose sono terrificanti di questa storia. Uno, che chi le ha tolto il lavoro è un'altra donna, che era il suo capo. Due, che, ma le donne si sa, sono così. Dai, dai, aizziamo contro Paola Saluzzi. Vabbè, beh, poi, quando le donne sono carogne, sono carogne. Si sa, si sa. Poi, Luca... che in realtà è stato un pretesto quasi, nel senso che, volendo lei in realtà licenziare per altri motivi, la scusa, diciamo, più considerata, più accettabile è stata quella di dirle che non rappresentava più degnamente l'istituzione, perché non si rifaceva il guardaroba, non si curava abbastanza, non aveva, cioè, una cosa abbastanza, cioè, abbastanza squalificante, che sia considerato accettabile come pretesto. Però Paola ci raccontava di Isabella Rossellini, insomma, vabbè, ci sono dei lavori in cui purtroppo o per fortuna, non lo so, la bellezza, la presenza fisica un po' conta, Paola, però c'è un po' di ipocrisia. Probabilmente, adesso io leggerò come sempre, come ogni settimana, e ci tengo a dirlo in maniera precisa e accanita, il nostro Vanity Fair. Ma devo dirlo, da sono in tempi non sospetti, tutto ciò accadeva. Certo. Innanzitutto vorrei andare a conoscere quella cozza della direttora, del perché una che vuole licenziare, sarà una bella donna, è una cozza. Sarà una strafiga invece. È una cozza morale, guarda, non fa nulla, anche se strafiga sicuramente si è rifatta. Appunto, poi cos'è? Un invito a diventare la bambolona di cortisone? A proposito di bambolona, hai detto bambolona, ti devo fare un quiz. So. Ti devo fare un quiz, Paola. Ti devo far sentire una voce in inglese. È di una persona che tu ammiri molto. E tu mi devi dire chi ha rilasciato un'intervista, la prima questa notte, alla ABC. I was in the courtroom when they were calling me a devil. I mean, dai, forza, it's one thing to be called certain things in the media, and then it's another thing. Dipinto come un diavolo, mi hanno dipinto, sì, moltissimo. Amanda Knox, no, non puoi fare queste cose il primo maggio. Amanda Knox, che è accusata dell'omicidio di Meredith Kercher. L'aspettiamo, l'attendiamo tutti con ansia per il secondo grado di giudizio, vero? Sì, con i pomodori. Sì, torna. Sì, torna sicuro. Luca Dini ha già comprato i biglietti. Da Seattle è già in economy, ha già il biglietto. Sì. Mamma mia. No, in business, dopo quello che ha preso. quanto mi fa arrabbiare questa ragazza. Che schifo, io guarda, è uno dei casi in cui lo dico, l'ho sempre detto, rompendo il mio garantismo, ci vorrebbe l'inversione dell'onere della prova. Io vorrei che ci dimostrasse che lei è innocente. Non lo so, è la cosa più aberrante dal punto di vista del diritto, no? Luca Dini, abbatto 500 anni di conquista del diritto, ma mi urta, no, proprio. Io non riesco a essere così sicuro come voi, come te, insomma, non so Paola come la pensi, però... Come Milan. Esatto. Come Milan, ma non lo so, però... Io non sono così sicuro, e anche lì continuo a pensare che... Insomma, che comunque l'aspetto fisico abbia pesato. Ha inciso. A me quella cosa dei fidanzatini satanici non è mai piaciuta. Cioè, questi sono stati descritti così... No, ma quello no, però voglio dire, ma anche questa cosa, dai, quando ha detto nel libro ho ballato e cantato sul luogo del delitto durante i rilievi. Sì, quella parte poteva saltare. Perché volevo togliermi la tensione di dosso, ma dai, su. La tensione. Allora, il primo sentimento che mi provoca Amanda Knox è di pigliarle a ceffoni. Ecco, quelle che in Toscana chiamano le labbrate di Noccola. Vedi la democratica garantista Saluzzino. Sono molto garantista, cioè una donna sanguinaria sono, non è vero, per carità. Però la prima cosa che mi viene da fare, perché no, sei innocente, stai zitta. Esatto, questo sei colpevole, stai zitta. Stai zitta. Il silenzio. Però non è colpevole. Il finale della voce della luna di Fellini. Se stessimo tutti zitti, a cominciare da me, che parlo, ma insomma devo parlare, oggi sono vostro ospite. Voglio dire. No, ma tu non ho capito, hai detto sei colpevole, ma non è colpevole, cioè è innocente, secondo. Stai zitta in ogni caso. No, perché però bisognerebbe rifare il processo. Vabbè. A proposito di stai zitta, posso dire solo una cosa? Come no, una certo. Donna bella di oggi, secondo me, è Marta Giangrande. E la farei veramente incontrare al signor Iannuzzi, cittadino Iannuzzi, a cui veramente io darei molti schiaffi, direttore, che è quello che non si è alzato, ricordiamo, Movimento 5 Stelle, durante l'applauso in aula a Giangrande. E vi voglio far sentire questa, perché è il primo maggio, dai, su. Oh, oggi non ci sarà uno dei miei miti, Fabri Fibra, il concerto del primo maggio, perché in alcuni suoi testi di alcune canzoni vecchie, che non voglio farvi sentire, sono un po' volgari, è contro le donne, ma dai. Paola, di qualcosa tu, il rapper è così, fa dei testi crudi, nudi, ma non è che... Ma è stato maltrattato dalla mamma, forse, o la ragazzina più bella della scuola non lo guardava. Ma dai, sì, ma fa dei testi anche duri, ma non è che contro le donne, ha fatto dei testi contro tutti. Ma allora cosa dobbiamo fare, Luca Dini? Eminem non potrebbe più neanche mettere... Esatto, stavo pensando a Fendi, Eminem. Ma dai, su, cioè, che ipocrisia. Viva Fabri Fibra, viva il primo maggio, viva il concerto del primo maggio con Fabri Fibra. Cos'è che hai detto? Viva? Le donne. Ah, viva le donne, viva, certo. Donne, sì. Viva le donne, viva Alessandra Moretti, evviva, evviva, evviva, evviva. Allora vi ringrazio, Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Ciao e grazie, Paola Saluzzi. Ci ritroviamo mercoledì prossimo, se vorrete, come sempre, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Eccoci, sono le 7:21 minuti. Allora, cosa state facendo, cari ascoltatori? Siete sotto le coperte ancora? Ci state ascoltando? State facendo colazione? Non andrete di certo a lavorare oggi il primo maggio. Noi siamo qua, siamo in diretta con l'alpino Peter Bescapè, con la nostra Miriam Lucchetti. Siamo qui ad allietare la vostra giornata, il vostro primo maggio. Vi leggerò i giornali, che non ci saranno domani, perché i giornalisti della carta stampata ovviamente non lavorano oggi, quindi non ci saranno domani i quotidiani in edicola. Oggi ci sono invece, e allora siamo pronti a leggerli. Voi mandateci i vostri messaggi al 349-238-6666, così per solidarietà, per fare capire che siete all'ascolto anche oggi e ci siete. E vi ricordo che oggi parleremo di che cosa? Beh, racconteremo alcune storie. La prima è quella di Domenico Quirico, inviato della Stampa, di cui non si hanno notizie da 3 settimane ormai, è in Siria. mestiere ancora complicato e c'è ancora chi lo fa, e quello del reporter di guerra. Parleremo anche con un deputato di Scelta Civica che si tiene solo 2.500 euro di stipendio, il resto lo dà in beneficenza, una storia un po' al Movimento 5 Stelle, ma fatto da un deputato di un altro gruppo politico. Se ce la facciamo, se i telefoni ci assistono, ci collegheremo anche in Nepal con Simone Moro, picchiato dagli Sherpa, ma i telefoni per il momento non ci assistono, ma abbiamo ancora un'ora di tempo, non demordiamo. Intanto la lettura dei quotidiani. In questo mercoledì 1 maggio i titoli stanno già litigando, questa è la notizia, stanno già litigando la questione dell'IMU. Il Sole 24 Ore sull'IMU, il primo scoglio per Letta, il Corriere della Sera, prima lite, l'IMU è un rebus, Repubblica, IMU il ricatto di Berlusconi, La Stampa, l'IMU fa già litigare PD e PDL e Il Messaggero, stop all'IMU, primo scontro. Per Libero, il governo c'è, i soldi no. Il Giornale, i primi passi del governo e adesso basta Merkel, e dunque il confronto tra Letta e la cancelliera tedesca. L'Unità, Letta a Merkel, è ora di crescere. Il Secolo XIX, Letta sfida alla Merkel. Avvenire, Letta Merkel, ora un patto per la crescita. Mentre il Manifesto si concentra sul lavoro in fumo, è pur sempre il primo maggio, e il Fatto Quotidiano, partiti 40 milioni dai privati, nome per nome, cifra per cifra. Oggi il Fatto Quotidiano pubblica questa cosa che vedremo tra poco. Prima però voglio tornare per un attimo come ieri in Tunisia, dove ci sono sviluppi sui giornali per quello che è stato trovato ieri, vale a dire lo yacht da 2 milioni e mezzo più o meno di euro, che secondo gli inquirenti è intestato attraverso un prestanome a Riccardo Bossi, figlio primogenito di Umberto Bossi, e la vicenda della Lega legata alla gestione Belsito, l'ex tesoriere che è finito anche agli arresti, e il Corriere ha scovato Stella, lo yacht da 2 milioni e mezzo di Riccardo Bossi, appartenente a lui secondo l'accusa dei magistrati. Lega ora lo sviluppo, i PM pronti a bloccare lo yacht, perquisita la casa del figlio di Bossi, è sempre Giuseppe Guastella che fa sapere, dopo lo scoop di ieri di aver trovato questo yacht, che la Guardia di Finanza ha bussato alla porta di Riccardo Bossi, ha perquisito l'appartamento nel capoluogo lombardo del figlio del fondatore della Lega nell'ambito dell'inchiesta sullo yacht da 2 milioni e mezzo ormeggiato in Tunisia. E su ordine del PM Robledo, gli uomini della polizia tributaria hanno acquisito copia dei documenti sulla Stella, sulla Stella, cioè il nome dello yacht, dei quali il Corriere è venuto in possesso. La Stella appartiene ufficialmente alla società inglese Stella Luxury Charter LTD, fondata in Inghilterra nel 2007, 7 mesi prima di immatricolare lo yacht, ma secondo varie testimonianze era Riccardo Bossi a usufruire sempre dello yacht. Ieri è intervenuto anche Roberto Maroni, il segretario del Carroccio. È una bella barca, ha detto, e se fosse vero che è stata comprata coi soldi della Lega, richiederemo subito il sequestro, perché quei soldi devono tornare alla Lega, che poi, volendo essere proprio precisi e pignoli, sono soldi nostri, cioè soldi del finanziamento pubblico. Poi, una volta che vengono dati ai partiti, sono dei partiti, i partiti li usano come vogliono, però in origine sono soldi nostri. Come reagisce Umberto Bossi, Giovanni Cerruti sulla Stampa, pagina 17, sono tutte balle, così Umberto Bossi, ma sì, scrivano pure quello che vogliono, tutte balle. Umberto Bossi ha fretta di tornare a casa, Riccardo mi ha detto che quella barca non è sua. Eccola lì, da aggiungere alla lista la barca a sua insaputa. Riccardo Bossi non ha letto la storia della barca di Renzo del porto in Tunisia, per la verità non è la barca di Renzo ma la barca di Riccardo Bossi. Io in Africa nemmeno morto, diceva seduto nel corridoio fumatori proprio lunedì pomeriggio, per smentire ancora una volta le false voci di investimenti di famiglia in Kenya. Nicoletta Maggi, la segretaria, come sempre gli ha riassunto l'ultimo bollettino delle disgrazie. Lui tutte balle. La verità, scrive La Stampa, è che Bossi, del figlio Riccardo, è probabile che sappia ben poco, semplicemente quel che gli raccontano e niente più. Comunque, anche per Libero, Bossi affonda da Mamet con uno yacht da 2,5 milioni. E a proposito di soldi, come detto, il Fatto Quotidiano pubblica pagina 2 e 3 un elenco di tutte quelle che sono i versamenti privati fatti ai partiti, tutto in regola, cioè le donazioni dei privati, il bottino dei tecnici, l'assegno Speranza per le candidature, il sostegno delle imprese aspettando la manna dei rimborsi elettorali. Carlo Tecce fa sapere per esempio che a Scelta Civica Ilaria Borletti Buitoni ha donato 710.000 euro a Scelta Civica. Fa sapere il fatto, tanta generosità che Monti non è riuscito a ripagare. Doveva entrare nel governo come ministro, potrebbe rientrare come sottosegretario. 710.000 euro donati, soldi suoi. Alberto Bombassè del gruppo Brembo ha dato 50.000 euro e spiccioli, sempre a Scelta Civica. Luca Cordero di Montezemolo non ha superato i 100.000 euro. E ancora, da Ingroia a Favia, sono stati pagati da Di Pietro, Italia dei Valori, ha dato 40.000 euro a Giovanni Favia, ex del Movimento 5 Stelle. Poi ha dato 50.000 euro per la... no, 1 milione di euro per la campagna nazionale di Ingroia ha dato il partito dell'Italia dei Valori. Mentre la notizia è che Silvio Berlusconi non sgancia più moneta per il suo partito e i liberali di Arcore, che detestavano la fusione con gli ex fascisti di Alleanza Nazionale, scrive il Fatto, devono ringraziare la liquidazione di AN, cioè Berlusconi non ha dato più grandi soldi. Il PD invece ha fissato la quota base di 18.000 euro, lungo rosario di nomi, a un granello più spesso al punto di Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada, che ha dato 100.000 euro al partito di Bersani. E poi Umberto Bossi non ha dato niente. Non ha dato niente alla Nuova Lega. Fa un certo effetto non trovare il nome di Bossi né di un figlio a caso tra i finanziatori leghisti. Ma dai, Umberto Bossi non ha dato nulla alla Lega. Vabbè, comunque potete sapere tutti i finanziamenti dei privati ai partiti, li pubblica il Fatto Quotidiano oggi a pagina 2 e 3. Una notizia che vi farà stare allegri: 1° maggio si lavora, lo stipendio dei giudici, dei magistrati aumenta del 5%. È uno scatto, non vi commento la faccia che ha fatto Peter Bescapè dall'altra parte del vetro, era un po' come dire vabbè. Gianni Trovati sul Sole 24 Ore a pagina 8: lo stipendio dei giudici cresce da una media del 4,2 al 5%. È l'ultimo atto amministrativo dell'ex premier Mario Monti di approvare questa cosa, ma la decisione risale alla Corte Costituzionale, dunque era una cosa dovuta, e la quantificazione degli aumenti discende in maniera diretta da un meccanismo automatico calcolato dall'Istat, tradotto in cifre da un 4,2 a un 5% in più di aumento: 4,2 per la magistratura amministrativa, 5% per la magistratura ordinaria. E quindi si guadagna più o meno dai 182.000 euro, il valore medio 137.000 euro l'anno. Ecco, i giudici, scatto dello stipendio del 5%, proprio il 1° maggio, così. Buon festa del lavoro. Tra poco ti entriamo. E allora, eccoci qua alle 7:35 minuti. Sono commosso, cari ascoltatori che mi avete scritto al 349-238-6666, raccogliendo il mio appello a dire: ditemi se siete con noi, manifestatevi anche questo 1° maggio, a parte un crumiri, uno mi scrive crumiri, mamma mia, cioè cos'è, un discorso del 1380 forse ancora, vabbè. Ivan da Verona, pasticcere, grazie, buon lavoro. Massi da Alessandria lavora, Ines da Torino, buon 1° maggio, Daniela da Carpi ci ascolta in bicicletta, mi raccomando, attenzione, altra Daniela sotto le coperte, vabbè, solidarizza, va bene, comunque, Rossana, grazie, siete degli eroi, no, adesso non esageriamo, oppure sempre presente, bravi ragazzi, Antonietta, grazie per essere con noi, Anna che ci manda anche dei baci, anche a Peter, baci anche a te, a tutti, Ornella e Franco che ci ascoltano, marito e moglie anche oggi, evviva, Daniele da Reggio Emilia. Vabbè, tutti davvero un abbraccio. Grazie. Allora, continuiamo nella lettura dei giornali per capire quello che è successo. Stanno a litigare, questo è il dato di fatto. Il nodo del litigio è sempre il solito: l'IMU. Allora quest'IMU va cancellata o non va cancellata? Va cancellata o sospesa? Va restituita l'IMU pagata, come chiede Berlusconi, se no cade il governo, oppure no, questo è un ricatto. Sul rinvio dell'IMU, decreto legge in arrivo. Questa è la notizia più interessante che pubblica il Sole 24 Ore a pagina 3 con Marco Mobili. Questa è la novità che sarebbe stata scelta: mandare in soffitta l'IMU e ripescare dai lavori della bicamerale sul federalismo la service tax, un'imposta unica sui servizi e sulla casa, una sorta di maxi tares che tenga conto del prelievo comunale sugli immobili, di quello sui rifiuti e sui servizi, a cui aggiungere un prelievo mirato sulle case di pregio. In alternativa, la strada che il governo Letta potrebbe imboccare per sciogliere una volta per tutte il nodo IMU potrebbe essere quello di avvicinare ancora di più l'imposta municipale unica al modello tedesco, ovvero una tassa molto più federale, completamente gestita dal territorio, strettamente legata a una rivalutazione delle rendite, che in Italia vorrebbe dire mettere mano subito alla riforma del catasto. E qui apre parentesi, dice sì, la riforma del catasto, da quanti decenni l'aspettiamo? Vabbè, chiusa parentesi. La terza via possibile, quella forse più conservativa, punterebbe a una semplice rimodulazione dell'imposta con un intervento mirato sulle detrazioni per l'abitazione principale e i carichi di famiglia, con una maggiore progressività del prelievo legata al reddito e all'ISEE. Insomma, devo dire che su questo IMU queste sono le ipotesi, ma certo c'è il litigio politico, tanto che Repubblica con Goffredo De Marchis racconta in un retroscena in prima pagina e poi continua a pagina 3 che Enrico Letta, prima di partire per la Germania dove ha incontrato Angela Merkel, è partito con una vera e propria rabbia. Per quella che, sono parole attribuite al Premier, è stata definita una cagnara inutile. Faremo una due diligence sui conti pubblici, vedremo come si può intervenire sulla rata dell'IMU di dicembre. Letta vola a Berlino con la scia del primo scontro dentro la grande coalizione. Parte nervoso per questa falsa partenza. La restituzione dell'IMU, sono ancora parole di Letta, sulla prima casa non esiste. Berlusconi lo sa. Infatti, nella consultazione della scorsa settimana non ne ha fatto cenno. Solo una volta in Italia è stata restituita un'imposta, l'eurotassa del governo Prodi. Ma allora le condizioni di crescita erano molto diverse. Si può valutare, invece, il governo sta studiando le soluzioni, la possibilità che lo stop al prelievo di giugno possa essere bissato anche alla fine dell'anno. Dunque, quello che si può fare, secondo il Premier, è non pagare la rata di giugno, al limite non pagare la rata anche di dicembre, ma c'è il problema delle coperture, cioè come si trovano i soldi. Ma la restituzione dell'IMU, secondo Letta, è una cosa che non esiste e Berlusconi lo sa. Dall'altra parte Berlusconi, invece, secondo il giornale, tiene duro. IMU addio. Francesco Kramer, a pagina 5 del giornale, non potremmo prender parte a un governo che non attui queste misure, e cioè l'abrogazione della tassa della prima casa, ma sono ottimista anche sulla restituzione in futuro. Dunque un Berlusconi che invece sarebbe ottimista da questo punto di vista, e qui c'è il litigio. Brunetta l'abbiamo fatto sentire alle 6.30, o si cancella l'IMU oppure non c'è più il governo. E però il tema è la restituzione, e qui Graziano Del Rio, neo ministro, lui dice in un'intervista a Repubblica: potremo ridurla e eliminarla per i più poveri, ma la restituzione nel programma non c'è. L'indicazione data dal Presidente del Consiglio è chiara, dice Del Rio, intervistata da Luisa Grion. Ci ha detto di lavorare, governo e Parlamento insieme, per revisionare il sistema attuale, alleggerire la fascia meno abbiente. Dopo la sospensione della rata di giugno vedo più scenari: l'eliminazione dell'IMU per i più poveri e per gli altri una riduzione dell'imposta in base al reddito, ma il punto d'approdo non c'è ancora. Siamo al governo da 2 giorni, faremo un'istruttoria, ne discuteremo con le Camere. Però la restituzione non è nel programma, dunque no alla restituzione. Su questo ci sarà la rissa politica che porterà addirittura alla rottura, chissà. Secondo un retroscena di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, dietro a tutti questi dubbi ci sono i conti che il neo ministro dell'economia Sacco Magni ha già esibito a Enrico Letta, e cioè la copertura è difficile. Questo è il titolo del retroscena: dai conti di Sacco Magni, cautela sul taglio, la copertura è difficile. Per Franceschini è solo una montatura mediatica, anche se poi tutto è nato dalle sue parole ieri in mattinata. L'IMU non verrà tolta, ci sarà una proroga per la rata di giugno, questa aveva detto Franceschini scatenando la bagarre. Il problema è politico, e cioè, dice il Corriere, quando Franceschini ha visto Fabrizio Saccomanni per fare un po' i conti insieme a Letta, il premier si è sentito dire dal ministro del tesoro che trovare i soldi per cancellare o persino rimborsare l'IMU sarà tutt'altro che facile. L'ex direttore generale di Banca Italia sarebbe rimasto spiazzato dal passaggio del discorso alla Camera in cui Letta annunciava lo stop ai pagamenti di giugno. Quindi attenzione, in questo retroscena del Corriere c'è di più, e cioè un ministro dell'economia che addirittura sulla restituzione manco se ne parla, ma anche sullo stop del pagamento a giugno fa sapere Saccomanni sarebbe rimasto spiazzato, perché non c'è la copertura, non ci sono i conti, non tornano i conti, e infatti insomma da qui c'è lo scontro politico e il dibattito. Detto questo, Letta è partito con questo carico anche di polemiche o di cagnara inutile, come definisce lui, secondo Repubblica, questa vicenda, per la Germania, dove c'era un primo confronto importante, quello con Angela Merkel, la cancelliera del rigore, e allora si sono visti, come racconta Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore a Berlino, in un reportage che trovate a pagina 5. Enrico Letta ha chiesto più crescita all'Europa, con la stessa determinazione usata per la disciplina fiscale. La cancelliera Angela Merkel ha risposto che senza il rigore finanziario non c'è spazio per finanziare sviluppo e occupazione. Siamo sempre lì. Da una parte la richiesta di maggiore sviluppo, di maggiore crescita, dall'altra parte la risposta: ci vuole più rigore. Tanto che il quotidiano Libero la pone in maniera dura così: Letta ci prova, la Merkel dice nein. E anche per il Corriere: Merkel fissa i paletti al primo incontro, rigore e crescita procedono insieme. Insomma, noi chiediamo la crescita, loro il rigore, è il solito dibattito. Tra l'altro c'è un retroscena interessante su questo incontro, lo trovate sul Secolo XIX a pagina 2 a firma Giovanni Palombo, e in questo resoconto c'è lo stupore di Angela Merkel, racconta Palombo. Lo stupore per che cosa? Per il fatto che Mario Monti in Italia abbia ottenuto pochi risultati elettorali. Angela Merkel ha chiesto direttamente a Enrico Letta quel che è successo in Italia, non un riferimento a Berlusconi. Ma la cancelliera tedesca si è molto meravigliata per il risultato marginale ottenuto da Mario Monti, scrive il Secolo. Il professore in Europa conta, e non poco, è una persona per la quale la Lady di Ferro nutre una grandissima stima. Ecco il motivo per cui la cancelliera non comprende come l'ex rettore di fatto sia finito nel dimenticatoio. Il premier italiano una risposta l'aveva già data quando aveva invitato la Germania a non sottovalutare il messaggio arrivato dall'elettorato italiano. Insomma, gli atteggiamenti privati nei colloqui sono mai esagerare con il rigore, questa è la linea di Enrico Letta. Andatelo a dire a un cittadino tedesco che del rigore fa il suo karma, e che magari si vede che in Italia, o per non accomunare, ma a Cipro, in altri paesi, in Grecia, invece dicono: ma no, il rigore va bene, però insomma non bisogna essere troppo ancorati a questo rigore. Andate a dirglielo a lui come la vede. In ogni caso, dopo il traffico, la politica ancora, e poi udite, torna Adriano Celentano, una paginata intera sul Corriere, con tanto di parole maiuscole! E allora eccoci qua alle 7:48 minuti. Intanto Berlusconi ribadisce: vuole fare presidente della costituente, quella per le riforme. Devo rifare una parentesi. Grazie ancora, tantissimi messaggi. Flavio, Max da Pinerolo, Luigi da Milano, Peter, c'è chi ci ascolta da Parigi in hotel su iPad, Carlo, grandissimo Carlo, e buon primo maggio anche a te. Salvatore sta andando a lavorare, non trova neanche un bar aperto. Andele Alma da Verona col caffè bollente in mano, quindi mi raccomando avvisare sempre. E tra poco c'è Adriano Celentano, devo leggerlo, quindi tenete il caffè bello sul tavolo. Vabbè, insomma, diciamo tantissimi, siete qui all'ascolto con noi. Berlusconi vuol fare il capo della Costituente per le riforme, ha detto ieri: mi chiedete se mi vedo bene come presidente della Convenzione per le riforme, io sono sempre il più bravo in tutto. E certo, mi vedo bene. Ma su questo c'è già la rivolta del Partito Democratico, c'è un'intervista anche intera di Massimo D'Alema, torna anche lui al Corriere della Sera, intervistato da Maria Teresa Meli. Noi e loro siamo diversi, il PD deve progettare il suo futuro, parla a tutto campo Massimo D'Alema sulla questione della convenzione, dice: io non intendo farne parte, non intendo far parte di alcuna convenzione, ho già dato. Ma può dire se è d'accordo sul fatto che Berlusconi la presieda? Mi sembra una forzatura inopportuna, ma non spetta a me decidere. A proposito di D'Alema e la possibilità che potesse diventare anche il premier, beh, dice e svela: voglio rivelare, in realtà la telefonata di Berlusconi era già finita su tutti i giornali, ma lui la racconta, voglio rivelare, racconta D'Alema a Maria Teresa Meli, che durante l'elezione per il capo dello Stato Berlusconi ha avuto la cortesia di chiamarmi al telefono per spiegare le ragioni per le quali non riteneva possibile convergere sul mio nome per l'elezione al Presidente della Repubblica. La maggior parte dei nostri elettori non capirebbe perché la considera uno dei nostri avversari più pericolosi, ha detto Berlusconi ad D'Alema. E lei che gli ha risposto? Gli ho risposto: la ringrazio, se volesse fare un'intervista per spiegare questo concetto anche a qualche elettore di sinistra. Ecco, non perde mai il suo sarcasmo pungente D'Alema, che dice però no a Berlusconi capo della convenzione. Oh, nel Movimento 5 Stelle invece c'è stata la prima espulsione, il senatore Mastrangeli espulso perché va troppo in TV, e lui dice: andrò a spiegare a tutti questa ingiustizia in TV. Questa cosa è meravigliosa. Fa un'intervista anche a Repubblica, Tommaso Ciriaco lo intervista, pagina 12, cacciato con un voto farlocco. La colpa è di Crimi, continua a odiarmi, ho soldato 62 scagnozzi per farmi espellere. Ma non c'è neanche un verbale di questi scagnozzi. E poi Roberta Lombardi, lei c'entra sempre, quella c'entra sempre dappertutto. Ma lei verrà allora cacciato, dovranno venire i commessi del Senato a portarmi via dal gruppo, intendo che dovranno farlo fisicamente. Insomma, promette di mantenere la posizione il senatore Marino Mastrangeli, espulso dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Rimane senatore, cioè non è che possono espellerlo dal Senato, è espulso dal gruppo perché va troppo in TV, come scrive Michele Serra oggi su Repubblica: va troppo da Barbara D'Urso, questa è la sua colpa. Ma non è già una pena andare troppo da Barbara D'Urso? Non è già una pena da scontare abbastanza dura così? Ci vuole anche l'espulsione? So, fate vobis. In ogni caso, ecco, Adriano Celentano interviene sul Corriere della Sera, un'intera paginata parla di questo dramma, in realtà, della vicenda Gian Grande, il carabiniere, uno dei due carabinieri, quello ferito in maniera molto grave, e tra l'altro ci sono oggi le immagini che dimostrano come Preiti, c'è questo fotogramma su tutti i giornali, ha mirato a un metro alla testa, ha mirato col braccio teso ad altezza testa, a un metro, sparando a un metro da Gian Grande, quindi secondo gli inquirenti è chiaro che volesse uccidere, non come dice lui tramite il suo avvocato, non voleva uccidere, spara col braccio teso. L'unica salvezza che ha evitato probabilmente la morte di Gian Grande è stata il fatto, come racconta Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, lo strappo, il cosiddetto strappo, cioè quando si spara la pistola modifica un attimo la traiettoria, soprattutto per uno che non è abituato a sparare come evidentemente Preiti, e quindi questo ha modificato la traiettoria. Ma davvero impressionante vedere la pistola tesa a un metro di distanza dalla testa del brigadiere che è stato colpito. Adriano Celentano, la velocità degli sciacalli, questo è il titolo sul Corriere della Sera, come al solito alcune parole maiuscole, quindi che vanno enfatizzate, il disagio sociale, scrive Celentano, non giustifica le pallottole esplose contro i due servitori dello Stato ed è meschino e ipocrita da parte di certa stampa speculare su una tragedia. Per una persona che era un esibizionista, che voleva risolvere il suo disagio con la violenza, prodotto soprattutto dal vizio del gioco d'azzardo, anziché rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo. Anche questo è un lavoro! Ed è il più nobile dei lavori. Ma lui, il giocatore di biliardo, bravo con la stecca, dicono voleva essere bravo anche con la pistola, e così 4 anni fa ne ha comprata una per allenarsi. Non si può mai sapere, c'è sempre qualcuno da uccidere. Ma è incredibile come riesca l'uomo a bruciare la propria vita in un tempo così fulmineo, come è altrettanto incredibile la velocità di certi sciacalli nel gettare fango verso chi ha generato invidia per aver fatto una campagna elettorale senza soldi in nome di un programma altamente democratico come il Movimento 5 Stelle, e che al contrario di chi li accusa ha invece generato la speranza in un mondo tutt'altro che ostile e soprattutto contro ogni genere di violenza. Bisogna essere cretini, ma cretini non lo sono per non capire che i toni eccessivi di Grillo non possono e mai potranno generare violenza. E vabbè, non esiste disagio, ancora scrive il molleggiato, che tenga per chi spara contro persone innocenti come il bravo carabiniere Giuseppe Giangrande, la cui unica colpa era quella di difendere la sacralità della vita. E poi continua, se la prende anche con gli imprenditori, che le persone che si tolgono la vita per la crisi, perché scrive Celentano: mi fanno incazzare i morti che lasciano il biglietto alla famiglia, perdonatemi ma non ce la facevo più a stare senza un lavoro. In quel momento vorrei tanto parlare col morto e dirgli: ma tu per chi lavoravi quando non eri disoccupato? Lavoravi per il bene della tua famiglia, lo scambio reciproco d'amore fra te, tua moglie e i tuoi figli, o solo per te stesso? Insomma, che a te devo pensare, non te ne mai fregato niente della tua famiglia, hai solo pensato a te stesso, dando sfogo al tuo sfrenato egoismo. Ecco, chi si toglie la vita è un egoista, per il molleggiato. Lo trovate a pagina 19 del Corriere della Sera. E che dire, devo chiudere qui. Sì, vi lascio con Adriano Celentano. Allora, mi raccomando, state con noi. Dalle 8:15 rientriamo dopo il giornale radio con gli ospiti. Simone Moro, ci sono tracce di Simone Moro in Nepal? No, per il momento è tutto spento. Vabbè, avremo altri ospiti, i centralini anche saranno aperti, 800 24 0024, se volete chiamare. E parleremo di che cosa? Del primo maggio, parleremo anche di Domenico Quirico, inviato della Stampa, scomparso da 20 giorni in Siria, partiremo proprio da questa storia, e poi altre cose, attualità, se volete, l'IMU, e ci sentiamo dopo. E allora eccoci qua, sono le 8:15, ben ritornati, siamo sempre in diretta, cari ascoltatori, in questo primo maggio, ben ritrovati da Alessandro Milan. Per i vostri sms 349-238-6666, io oggi voglio iniziare raccontando le ultime notizie, quello che riusciamo a poter dire, ovviamente nell'angoscia e nell'attesa. Su Domenico Quirico è l'inviato della Stampa che da 3 settimane ormai non dà più notizie di sé dalla Siria. Ieri il direttore della Stampa Mario Calabresi, o meglio l'altro ieri, ha deciso di rendere pubblica questa notizia, e da oggi, per il secondo giorno consecutivo, la Stampa esce con questo fiocco giallo a fianco alla testata in prima pagina, come a ricordare una persona cara di cui si attendono notizie e si attende il ritorno a casa. Noi siamo in collegamento con Mimmo Candito, che anche lui è inviato della Stampa, presenta anche di Reporter Senza Frontiere Italia. Buongiorno Mimmo e benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, intanto la domanda ovviamente che giro a te, che è un po' di apprensione da parte di tutti i colleghi, ma anche di tutti gli italiani, è capire se ci sono novità sulla sorte di Domenico, se si sa qualcosa dalla Siria. No, nessuna novità. Questo è abbastanza normale che accada quando vi sono dei giornalisti che sono scomparsi, diventa difficile trovare un filo che possa seguire il loro percorso. Nessuna novità, soltanto l'angoscia che accompagna questa attesa. Oggi, per esempio, nel corteo del primo maggio sfileranno i giornalisti piemontesi, sfileranno con uno uno striscione libertà per Domenico Quirico, come sempre si fa in questi casi quando in Italia o in altri paesi del mondo quando scompare un giornalista. Ecco, libertà implica il fatto che ci sia mistero anche sulla sorte proprio di Domenico. Ieri si sono sparse anche voci sul fatto che potesse essere stato rapito, essere in mano a qualcuno, qualcuno ipotizzava Hezbollah al confine tra la Siria e il Libano, qualcun altro ha smentito, Hezbollah stessa ha detto noi non c'entriamo nulla, c'è anche il rischio che possa essere finito in mano a qualcuno? Vi sono molte ipotesi sulle quali con angoscia e anche con un po' di ipocrisia nel silenzio tutti ci stiamo muovendo. La prima angoscia, bisogna dirlo, è che possa essere stato ucciso direttamente perché così si voleva. Lui era in compagnia di un giornalista belgo, di uno scrittore belga, una figura sulla cui identità, diciamo, politica non si hanno alcune certezze. E questo potrebbe essere accaduto, oppure che sia stato vittima, per esempio, di un bombardamento, come può anche accadere. E queste sono cose che bisogna dirsi, anche se sono amare, soprattutto per i familiari, certamente. La seconda ipotesi è che si stia muovendo in un territorio nel quale le difficoltà di comunicazione fanno parte diretta del lavoro che si compie quando si è laggiù. E quindi anche se ciascuno di noi si muove consapevole dell'angoscia che i silenzi possono procurare alla famiglia o al giornale o comunque al resto dell'opinione pubblica, beh, quando uno ha un obiettivo cerca di seguirlo, e Domenico aveva questo obiettivo di raggiungere per quanto possibile la periferia di Damasco, e questo comporta evidentemente il muoversi in un territorio nel quale non vi è possibilità alcuna reale di comunicazione, quindi tu vai per la tua strada, sai che dall'altra parte lontano qualcuno è angosciato, sta temendo per te, ma vai per la tua strada, fa parte del lavoro. Fa parte la terza ipotesi è questa a cui facevi riferimento, del rapimento. E sì, certamente è una delle ipotesi. D'altronde finora il giornale e la Farnesina si sono mossi proprio su questa linea, immaginando un possibile sequestro di persona. Inizialmente si è taciuto su questa ipotesi, sperando che dall'altra parte ci fosse un primo segnale, e comunque tentando intanto sul terreno di trovare un filo che potesse seguire il percorso di Domenico. Passate due settimane, visto che non si era riusciti a far nulla, allora si è pensato che fosse preferibile dare comunicazione pubblica di questa sparizione per lanciare un segnale agli eventuali rapitori, dire vabbè, sapete che noi adesso stiamo seguendo questa traccia, fatevi vivi. Finora non si ha alcuna. E certo, no, di certo dall'ipotesi più angosciante a quella comunque angosciante, ma con ancora molta speranza, c'è di fatto che non si sa nulla. C'è da dire che Domenico Quirico è un giornalista come tanti inviati, o non so se sono tanti o pochi, Mimmo, poi qua si potrà discutere anche di questo, che spesso spegneva il cellulare, non dava notizie di sé per alcuni giorni perché si doveva calare completamente nel territorio e nelle storie che poi voleva raccontare. Io quando lo dico qui, ma quando da anni ricevo questa domanda, qual è il tuo giornalista preferito, quello che leggi con maggiore attenzione, e lo dico anche con molta, con un po' di emozione, ho sempre detto Domenico Quirico, e tutti mi dicono ma chi è Domenico Quirico? E certo, perché ormai si è perso un po' il senso di alcuni giornalisti, tu sei uno di questi, che vanno in giro per il mondo e raccontano poi le storie che vedono con i propri occhi, storie magari anche che possono sembrare minori, che ma poi riescono a raccontare con uno straordinario anche senso narrativo. Ecco, Domenico faceva questo e fa questo, quello di calarsi nel territorio, quindi la possibilità che stia lavorando in qualche modo in silenzio a qualcosa, c'è anche questa, oppure la escludiamo? No, io sono abbastanza convinto. L'unica perplessità nasce dal fatto che finora i viaggi che lui aveva fatto con questa, diciamo, tra mille virgolette, sparizione, erano viaggi che duravano una settimana, massimo 8 giorni, 9 giorni, e poi c'era il rientro. E quindi questa volta vi è questa difformità che lascia qualche angosciosa perplessità. Però, come dico, quando uno di noi ha un obiettivo sul territorio, ma poi che sia un giornalista di guerra, che sia un cronista che faccia una sua ricerca in una città, beh, si va verso l'obiettivo, tralasciando un po' tutte quelle altre circostanze che possono in qualche modo attutire l'attesa. E quindi se lui sta cercando di andare verso Damasco, e il percorso non è affatto facile, è un territorio di combattimento costante, bisogna muoversi con molta cautela cercando protezioni sul terreno e così via, beh, non è da escludere che questa volta invece dei 6 giorni vi sono stati più giorni. Come dicevo prima, noi siamo consapevoli quando ci muoviamo in un territorio difficile, che stiamo creando angoscia ai nostri familiari o agli altri, e però è l'obiettivo che ci accompagna e ci spinge a continuare per la nostra strada. Questo è un punto fondamentale, Mimmo, perché tu ne hai parlato ieri raccontando sulla stampa proprio il lavoro di reporter di guerra. Hai scritto anche un libro, Reporter di guerra, che è un must un po' per chi è anche appassionato del settore. E cioè, la domanda che vi fanno sempre è: ma chi te lo fa fare? Perché devi andare a cacciarti nei guai? Ecco, questa domanda l'avranno rivolta un milione di volte, ma insomma rispondi anche qui per i nostri ascoltatori di Radio 24. Ma è il senso del dovere, continuo a dire che non vi è poi differenza di fondo nel nostro mestiere fra chi fa il corrispondente di guerra e chi fa il cronista in città. Hai un obiettivo, sai che devi cercare di avvicinarti quanto più possibile ad una narrazione autentica della realtà. Sai sempre che mai la realtà potrà essere nelle tue parole o nelle tue immagini, però cerchi di essere quanto più vicino possibile. È chiaro che nel lavoro che fai in territorio di guerra il rischio è molto alto, e quindi questo porta la tensione del nostro lavoro di ricerca al punto più elevato. Però è una volta in un dibattito che ebbe con Giorgio Bocca, lui mi disse: voi fate questo perché volete essere i migliori. Io credo che questo faccia soltanto minima parte del nostro impegno sul territorio. C'è questa volontà di dire: devo corrispondere a un impegno preciso, so che devo raccontare una realtà difficile da decifrare nella sua complessità, e allora mi ci impegno dentro, e certo sono consapevole che assumo dei rischi, ma devo dire che mai uno di noi, quando va in territorio di guerra, pensa di essere ammazzato, ma non perché siamo dei superuomini, perché questa angoscia la mettiamo nel fondo proprio del nostro bagaglio, spingendoci invece a un tentativo di raccontare quanto più possibile ciò che drammaticamente accompagna la vita delle società. Siamo vicini alle sofferenze, cioè, ecco, questo occorre dirlo sempre, c'è un'empatia di fondo che accompagna questo nostro lavoro. Se noi non fossimo vicini a coloro, sentissimo il dolore, la sofferenza di coloro che sono dentro il territorio di guerra e possono essere potenziali vittime, non faremo questo lavoro. C'è questa empatia di fondo, e cerchiamo questa, con questa diretta che spinge anche a raccontarla. Tornando proprio sulla vicenda Domenico Quirico, ci hai detto qualcosa sulla Farnesina, ecco come si sta muovendo il Ministero degli Esteri e la neo ministra Emma Bonino, che ha subito seguito, vuole seguire in prima persona il caso, come ha raccontato ieri il direttore vostro Mario Calabresi, ma insomma mi pare di capire che per il momento si brancola un po' nel buio, tristemente. Tristemente sì, è così. Il nuovo ministro, la Bonino, ha espresso immediatamente la sua solidarietà e l'impegno massimo, questo devo dire che c'era già prima. L'unità di crisi della Farnesina ha una sua esperienza professionale molto profonda e si muove intensamente, però dobbiamo essere consapevoli di una cosa, che la presenza di nostri uomini sul territorio siriano è davvero, non voglio dire inesistente, ma minima. Se pensiamo che anche gli americani stessi hanno sul territorio pochissimi agenti, si capisce bene quanto sia difficile muoversi in quel territorio, quindi può far poco, si impegna moltissimo, ha esperienza alla unità di crisi e quindi adotta tutte le metodiche che finora hanno portato dei risultati quasi sempre positivi, però con la consapevolezza che ci si muove in un terreno nel quale, forse come in nessun altro territorio di guerra, la composizione così variegata delle varie parti che si combattono rende molto difficile trovare un filo che possa seguire un percorso di ricerca. Oggi Fabio Bucciarelli, che è il fotografo che spesso lavora con Domenico Quirico, viene intervistato sia dalla stampa, ma fa anche un intervento sul Fatto Quotidiano molto, molto toccante, anche per raccontare chi è Domenico Quirico. Per esempio, Domenico Quirico era stato sequestrato anche in Libia di recente, così, insieme ad altri colleghi. In quell'occasione fu ucciso l'autista proprio sul posto, davanti agli occhi dei giornalisti che furono sequestrati, e racconta Fabio Bucciarelli quando lui fu liberato, poi aveva visto la morte avvicinarsi, l'aveva schivata di un soffio, il suo driver era stato ucciso sotto i suoi occhi, quello dei colleghi, e quasi con un senso di colpa è tornato in Italia, ha raccolto fondi per la famiglia dell'autista giustiziato. Io ricordo poi lui ha raccontato, credo sulla stampa, il suo ritorno in Libia alla ricerca della vedova, a questo punto del driver che lo aveva accompagnato. È stato uno dei momenti di racconto più bello da parte di Domenico Quirico. Anche questo è Domenico Quirico? Sì, io credo che, non so quanti dei nostri ascoltatori abbiano letto Lord Jim, quello splendido romanzo di Conrad. Lord Jim è la figura di un personaggio che si trova coinvolto in una storia nella quale in qualche modo sfugge, va via, consapevole di lasciare alle proprie spalle gente che però deve morire. E il lavoro del consulente di guerra in fondo è questo: entra in un territorio nel quale sa che c'è gente che potenzialmente è destinata a morire, soldati ma soprattutto civili, e però egli ha sempre la consapevolezza, come dicevo prima, l'idea, l'orgogliosa presunzione di poter tornare a casa e raccontare, quindi lascia alle spalle coloro che muoiono, lui ha sfiorato la morte, però si porta dentro di sé sempre questa coscienza amara di aver lasciato alle spalle gente che muore o che è morta. Ecco, Domenico in qualche misura ha interpretato questo ruolo che fa parte del lavoro del corrispondente di guerra. Quanti sono i corrispondenti di guerra che purtroppo, non speriamo non sia il caso di Domenico, anche se purtroppo una delle alternative, una delle possibilità ci ha fatto capire questa, che perdono la vita sul campo? Guarda, già quest'anno, come il reporter Sans Frontier ha segnalato, sono già 54 i giornalisti o comunque gli uomini dei media che sono stati ammazzati in guerra. Nella guerra, se tu pensi che soltanto nella guerra in Iraq, che formalmente si è chiusa ma in realtà continua, sono stati ammazzati 259 giornalisti, capisci bene che il rischio è reale, oggi molto più che in passato, perché in passato tutto sommato il giornalista aveva una veste, veniva considerato un osservatore neutrale e quindi non è che se lo si rispettasse poi completamente, ma comunque poteva più spesso essere ucciso per un incidente che non direttamente. Oggi invece il giornalista di guerra viene considerato una parte del combattimento, nel senso che la resa mediatica del suo intervento, quindi il suo racconto o il suo sequestro o la sua uccisione, immediatamente rilancia in tutta l'opinione pubblica l'attenzione su quanto sta avvenendo. Certo. E quindi si finisce per legittimare la forza o la capacità di questa componente militare di essere presente sul territorio. Quindi è uno strumento del combattimento fra le forze che sono sul terreno. E soprattutto anche come dici, nell'Iraq e anche nella Siria odierna. Più che mai, sì, più che mai per la complessità delle componenti, perché è nata come una lotta in qualche misura contro un dittatore, oggi è diventata sempre più invece una componente della galassia infinita delle lotte che vi sono all'interno dell'Islam, soprattutto fasciti e sunniti. Quindi è cambiata la sua identità, è cambiata l'identità delle componenti sul suolo ed è cambiata l'identità delle componenti che sono alleate di queste forze che si stanno combattendo. In ogni caso, tra le prospettive che ci hai raccontato, speriamo davvero che quella della temporanea scomparsa per fare un qualche tipo di lavoro, comunque che si possa risolvere questa situazione. Noi siamo sempre in attesa e la seguiremo questa vicenda. Mimmo, io ti ringrazio molto per essere stato con noi, Mimmo Candito. Buon lavoro e speriamo che Domenico, io devo dire, sono parlando fra noi colleghi in questi giorni, trovo tantissima angoscia un po' da tutti, ce l'ho anch'io ovviamente nel fondo del mio animo, ma proprio per l'esperienza diretta sul campo io resto ancora ottimista, nel senso che sia Domenico stia perseguendo il suo obiettivo e quindi, pur creando tanta angoscia e sapendolo perfettamente, deve raggiungere il suo obiettivo. Grazie davvero a Mimmo Candito, inviato della Stampa, presidente del Porto Senza Frontiere in Italia, e appunto, tanti in bocca al lupo a Domenico Quiri, con la speranza, inviato della Stampa, scomparso in Siria da 20 giorni, la speranza di avere notizie presto di lui. Noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, poi ritorniamo alle cose italiane un po' così. Avremo due ospiti che si succederanno: il senatore espulso dal Movimento 5 Stelle Marino Mastrangeli, che dice mi dovranno spostare fisicamente dal gruppo, è stato espulso perché va troppo in TV. E poi avremo un deputato di Scelta Civica, Mario Sberna, che sapete che fa, a parte che è considerato un po' il deputato francescano, va in giro proprio con i sandali in Quaresima, per esempio, è uno che vive in convento, è un signore che devolve gran parte dello stipendio da parlamentare in beneficenza, tiene per sé 2500 euro, un po' come fanno quelli del Movimento 5 Stelle, anche se c'è dibattito su questo, e il resto lo dà in beneficenza perché dice è troppo, e vive proprio in maniera così francescana. E lo rivendica. Sarà con noi tra poco, dopo la pubblicità del meteo. 24 mattino. Allora, eccoci qua alle 8:35 minuti. Cari ascoltatori, siamo sempre in diretta. Il primo maggio, ringrazio tutti gli ascoltatori che ancora ci mandano messaggi al 349-238-6666 a dire siamo noi anche qui ad ascoltare ancora. Luisa da Modena, Ennio dalla provincia di Frosinone, un altro ascoltatore che non si firma, uno che dice sì, ho acceso il PC per caso, ma adesso scappo in gita. Beato lui, buona gita, però intanto per 3 secondi ci ha ascoltato. Allora, veniamo a parlare delle cose italiane, della politica italiana. Lo facciamo con un deputato che voglio salutare, Mario Sberna, onorevole di Scelta Civica. Buongiorno, onorevole Sberna. Buon primo maggio. Senta, la sua storia ci ha molto colpito, la vogliamo raccontare, perché l'hanno definita intanto il deputato francescano. Che vuol dire? Ma è vero che lei va in giro in sandali in quaresima? Sì, beh, certo, ma è una onorevole Sberna, ma lei c'ha la radio accesa, aspetti un attimo, la deve spegnere, la spenga. Ecco, adesso mi sente per telefono. Non sarà contenta mia moglie e le mie figlie perché sono in macchina con me. Alla prima partita della nostra bambina di 9 anni, Aurora. Ma che cosa fantastica! A volley. Quindi siamo tutti emozionati per questa prima. Ma in bocca al lupo, Aurora, se ci sta ascoltando, in bocca al lupo, accidenti! E speriamo che davvero che si diverta intanto. E che dove gioca? In che squadra gioca? È la squadra della parrocchia, però oggi c'è l'inizio del campionato interparrocchiale, quindi si fa festa. Mi raccomando, insomma, buon divertimento Aurora e soprattutto mi raccomando vinci, ecco, perché insomma è importante anche cercare di vincere con la propria squadra. A quell'età lì poi. Allora, oggi tra l'altro La Stampa, forse lo sa perché l'avrà chiamata, fa un articolo su di lei, a pagina 9, il Montiano Grillino. Perché? Allora, l'onorevole Sberna tiene per sé quanto dello stipendio da deputato? Lo tengo lo stesso, io e mia moglie teniamo lo stesso stipendio che avevo prima di entrare in politica, fino a 2 mesi fa, insomma, che era, corrispondeva tra assegni familiari e detrazione a 2.500 euro. Ah, quindi lei ha detto, io entro in politica, non mi voglio arricchire di un euro, quindi mi tengo quello che mi prendevo prima, 2.500 euro. Sì, proprio per la scelta di non voler cambiare come classe sociale e con l'obiettivo proprio di continuare a mantenere uno stile di vita che ci consente di stare vicini a chi conosciamo, alla classe diciamo sociale più meno agiata del paese e quindi conoscerne direttamente i problemi e non dimenticarseli soprattutto. Beh, questo è interessante, perché io non mi chiedevo perché la cifra come l'aveva stabilita, 2.500 euro. Mi piace il principio, l'idea di dire non mi voglio arricchire di un euro rispetto al lavoro che facevo prima. Sì. Faccio la politica, guadagno quello che facevo prima. Esatto. Dovrebbe essere un principio generale. Sì, io credo di sì. Cioè, tutti dovrebbero, ovviamente anche coloro per carità che guadagnavano più di quanto guadagnavo io, però cioè, la politica non dovrebbe essere motivo di arricchimento, perché la politica è servizio e comunque è un lavoro, perché effettivamente è un lavoro come gli altri e deve essere remunerato, io credo, nello stesso stile, nella stessa quantità del precedente, in maniera che appunto non ci si arricchisce, perché altrimenti diventa... Altrimenti nascono i problemi di cui sappiamo tutti. Ecco, ci sveli questa cosa dei sandali, perché è vero, la definisco così, no, l'onorevole coi sandali. Sì, ma questo, guardi, è una cosa davvero molto, molto semplice, insomma, come tutti i cristiani in quaresima si fanno dei fioretti, questo me l'ha insegnato la mia mamma e il mio papà quando ero piccolino ed è stata una cosa... E il mio di fioretto, abitando a Brescia, dove il clima è piuttosto, durante la quaresima, anche abbastanza fresco, insomma, utilizzare i sandali è un segno, era un fioretto quaresimale, appunto, cioè qualche cosa che così, c'è chi non mangia i dolci, c'è chi non fuma le sigarette, c'è chi invece si mette i sandali. Fa questo fioretto, però è anche vero che lei vive, quando è a Roma, vive non in hotel, vive in un convento, dove? Sì. Ma no, sono una congregazione di suore, tra l'altro amiche, con una madre superiore, lì a Roma ho studiato addirittura insieme, perché è una congregazione di Brescia che però ha una casa, ha un convento anche a Roma e mi hanno... La ospitano lì. Senta, una stanza con un bagnetto, insomma, ecco, per cui tutto quello che mi serve. Certo, la questione è questa: lei prende 2.000, si tiene 2.500 euro. Del resto, visto che la paga del deputato è irrinunciabile per legge, quindi lei la deve prendere tutta. Il resto, lei che fa? Lo dà in beneficenza. È l'unico modo. A chi lo dà? A tutte quelle realtà, le dico la verità, che crescono ovviamente immediatamente nell'essere messo, nel venire a conoscenza di questa cosa. Comunque le realtà che già io conoscevo come che io e mia moglie conoscevamo come bisognose, insomma, per cui principalmente è stata l'associazione dalla quale proveniamo, l'associazione Famiglie Numerose, che ha ovviamente al suo interno molte famiglie, perché purtroppo in Italia per il momento almeno è così, io spero di poter cambiare qualcosa, chi ha più figli è veramente svantaggiato e paga molto di più e quindi si ritrova spesso in povertà. E poi proveniamo io e mia moglie anche dal mondo del volontariato internazionale, siamo stati 4 anni e quindi anche queste realtà, diciamo, missionarie che conosciamo quindi direttamente, sappiamo il bene che fanno, ci sembrava giusto dare qualcosa a loro. Senta, poi alcune famiglie proprio che conosciamo direttamente, chi non aveva i soldi per pagare l'affitto, chi non aveva i soldi per pagare la rata della bolletta, chi voleva, sperava tanto di riuscire a fare la patente al figlio che poi magari si trova un lavoro. Un'altra realtà che tiene la San Vincenzo, insomma, che è pure nota un po' in tutta Italia, ma guardi che bisogno, guardi anche cose, cioè, noi gli abbiamo comprato il videoproiettore perché la sera questi poveri di strada che senza fissa dimora possono vedere un film, un film qualcosa. Senta, no, ma tutti, no, ma certo, ma iniziative, ma dica la verità, Sberna, la guardano un pochino strana in Parlamento i suoi colleghi? Io non sento questi sguardi. Sono i grillini che effettivamente mi invitano. I grillini, quelli del Movimento 5 Stelle, dicono venga da noi già lo facciamo. Cosa ci fa con Monti, identificato come il partito dei ricchi, no? Guardi, dei bocconiani? Io sinceramente, adesso non è partire dall'acqua al mulino, ma credo che il presidente Napolitano abbia detto nel suo discorso inaugurale una cosa molto, molto vera su Monti, cioè che quando si sarà, insomma, sedato un po' l'attacco nei suoi confronti, ci si renderà conto che il governo Monti ha davvero salvato l'Italia. Però chiusa questa parentesi, io in Scelta Civica mi ci trovo molto bene, anche perché sono tutti nuovi dalla politica come lo sono io, e quindi c'è questa affinità, insomma, del dover imparare tutto e del mettersi a studiare. Ma gli altri invece gli altri che si tengono tutti lo stipendio la vedono un po' come quello, ma sì, un po' il matto che vuol fare un po' di beneficenza, dica la verità, no? O no? No, sinceramente, siccome mi hanno già conosciuto per quello che sono, perché sono davvero, siamo io e mia moglie trasparenti, insomma, non senza sotterfugi, senza, per cui no, io mi sento amato e stimato. Mi sento bene. Lei vuol fare anche una battaglia, mi pare. Per lei quando prende il treno va sempre in seconda classe. Il treno in seconda classe, sì. Anche se avrebbe diritto alla prima classe in quanto deputato. Sì, però ecco, io su questo invece vorrei sinceramente che tutti ci rendessimo conto, cioè, ripeto, sulla questione dei soldi ognuno in coscienza faccia come crede, faccia come può e faccia come pensa. Sulla questione del trasporto non si può fare come si pensa. Abbiamo i cittadini che giustamente ci pagano il viaggio per andare e tornare da Roma, perché dove lavoravo, quando la cooperativa dove lavoravo prima mi mandava a Roma per un convegno, il viaggio mica lo pagavo io, ma lo pagava la cooperativa, no? Certo. Quindi lei vuol fare una battaglia perché tutti i deputati vadano in seconda classe, cioè togliere questo privilegio della prima classe. Perché che i cittadini ci paghino il viaggio è giusto, cioè che lo Stato ce lo paghi è giusto, perché andiamo là per lavorare, ma che sia in prima classe è una vergogna, dobbiamo tutti, poi se c'è l'onorevole senatore che per abitudine o per qualunque altra ragione desidera viaggiare in prima classe, si pagherà Si paga la differenza, certo, però lei vuol togliere questo, è un privilegio, questo della prima classe, secondo lei? Ma più che altro è inutile, perché guardi, penso abbiamo molti degli ascoltatori hanno viaggiato da Milano a Roma col treno con la freccia rossa, e insomma è comodissimo, no? È in seconda classe esattamente come in prima classe, per cui che non bisogno, ha davvero senso spendere per un'andata e un ritorno 100 euro di più. Ma lei che lo vive in maniera, così mi passi l'aggettivo, francescana, perché tanto hanno usato questo aggettivo, l'accostano. Sì, ma guardi, i miei figli, per dire, uno si chiama Francesco, l'altro Maria Letizia, ecco, allora fa benissimo, e allora come la vivi? Secondo lei è proprio la casta quella che viene dipinta dai giornalisti come la casta degli onorevoli? Ha notato che è davvero così? È una casta, guardi, oppure no? Secondo me, io stimo tantissimo dei suoi colleghi come Rizzo e Stella. E Stella. E quel libro l'avevo comprato anch'io, quindi guarda che ce l'ho a casa e ce l'ho ben presente. Ecco, secondo me dovrebbero rifarlo, cioè adesso è arrivato il momento di farlo, perché molte delle cose che erano della casta semplicemente non ci sono più. Il vitalizio, ma tanto guarda, non voglio fare vitalizio, io sì. Non vado praticamente mai, ma anche qui non è né demagogia né niente, semplicemente forse abitudine, insomma, diciamo così, non vado quasi mai al ristorante alla Camera, però sono andato due volte. Quelle due volte ho speso come fuori, uguale, fuori vado in un self-service, non faccio il nome per la pubblicità, ma la più famosa catena di self-service che c'è in giro, sulle autostrade, e spendo praticamente la stessa cifra. Quindi insomma, cioè, sì, bisognerebbe un po' rimodulare. Il caffè dentro nella famosa buvette costa di più che fuori costa 0,80. Vabbè, ma insomma, segno che forse alcune delle battaglie sono andate in porto. Infatti, però magari sarebbe anche il caso di dirlo, fare una nuova edizione, Stella Rizzo. C'è in giro adesso, insomma, io vorrei anche ricordare il drammatico ferimento dei nostri due carabinieri, no? Che comunque sono hanno sofferto loro sulla loro pelle, con il rischio della propria vita, quella rabbia, che c'è. Montata nei confronti della politica. Onorevole Sberna, magari anche bisogno di abbassarla, nel senso che molti privilegi non ci sono più. Loro uno stipendio che è significativo, non esageratissimo rispetto a un qualunque manager e di qualunque azienda. No, ma questo sicuramente. Onorevole Sberna, io la devo salutare. So che lei, ma lo è ancora il presidente dell'Associazione Famiglie Numerose? No, non è più. Quanti figli ha lei? Quanti figli ha? Cinque, evviva! Sì, sì. E allora. Sì, che ho associati che ne hanno 12, 13, 14. Lo so, certo, famiglie numerose, è chiaro. Allora, tanti in bocca al lupo, soprattutto Aurora per la sua partita. Sì. Va bene? Glielo dirà subito, quindi dietro adesso glielo dico. Grazie, onorevole Sberna. Allora, la salutiamo per il momento. Era l'onorevole Mario Sberna di Scelta Civica, che si tiene 2.500 euro, il resto lo dà in beneficenza, vuol fare la battaglia per togliere il privilegio vergognoso della prima classe in treno ai deputati. A proposito di treno, è in treno, credo, in arrivo a Roma, tra poco sarà con noi il senatore Marino Mastrangeli, espulso dal Movimento 5 Stelle. Tra poco. Eccoci l'ultima parte di 24 Mattino, edizione del primo maggio, con il senatore Marino Mastrangeli che è con noi. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Ma Movimento 5 Stelle, si può dire che Movimento 5 Stelle, lei se ne sente ancora orgogliosamente parte? Certo, assolutissimamente sì, io faccio parte tuttora e lo farò e ne farò parte sempre del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica. Sempre non lo dica così, perché non si sa, fino a quando un tribunale della Repubblica non dirà il contrario, io farò parte del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ma perché uno non può venire espulso da un gruppo? Cioè lo deve, perché lei fa ricorso. Se si rispetta lo statuto del gruppo è evidente di sì, ma siccome non è stato rispettato il regolamento del gruppo, il mio tentativo farlocco di espulsione è assolutamente illegittimo, sia nel merito perché non ho violato nulla, sia nella forma perché non c'è stata la maggioranza dei parlamentari a votare, portare agli iscritti la ratificazione. Farò ricorso al tribunale ordinario, al tribunale civile di Roma, e contesterò e quindi sicuramente fino a quando non si pronuncerà il tribunale di Roma io non potrò essere espulso. Però senatore, queste sono tecnicalità per cui fare ricorso, importanti per un ricorso, però lei come fa a stare in un gruppo che non la vuole almeno a maggioranza, cioè come ci si sente? Assolutamente, ma quale maggioranza? Le ripeto, io ho perché non c'è uno straccio di verbale di quella riunione indetta da Vito Crimi, però ho un foglio compilato a mano dalla senatrice Bulgarelli, la quale era moderatrice dell'incontro ed è la vice capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, in cui c'è scritto che c'erano 3 astenuti, 25 contrari alla mia espulsione e solo 62 che hanno proposto la mia espulsione. Siccome siamo 163, la maggioranza è 82 e di fatto c'erano 101 che non hanno votato la mia espulsione, solo 62 la mia espulsione, lì c'erano 2 maggioranze, una di 101 che era contraria alla, che comunque non ha votato la mia espulsione, e un'altra di 72 assenteisti sul lavoro che anziché venire a lavorare chissà dove stavano. Ho capito, però poi c'è la rete, il movimento il movimento non lavora diritto in Italia, non siamo mica in Corea del Nord. Se si propone alla rete una cosa illegittima, cioè se per dire a me mi mettono una busta di cocaina nella macchina, chiamano i carabinieri e poi si chiede alla rete lo espelliamo Mastrangelo, è chiaro che dicono di sì, ma è a monte che... Ho capito, ma lei è uno del Movimento 5 Stelle che contesta la rete, già questo farebbe sobbalzare la democrazia della rete. Luigi Einaudi diceva conoscere per deliberare, se alla rete è stato proposto un post di votazione dove ci sono scritte tutte falsità, è ovvio che la rete, conoscendo falsità, vota in una maniera, e anzi mi meraviglio che ci sia stato addirittura quali sono le falsità, cioè l'accusa che le hanno fatto è che lei appare troppo in TV. Le falsità sono che io non ho mai violato il codice di comportamento, perché non ho mai partecipato a un talk show televisivo, ho solamente rilasciato delle interviste giornalistico-televisive, e peraltro chiedendo ed ottenendo sempre di stare in uno studio diverso proprio per non entrare nel talk show televisivo. Cioè, in più, ripeto, non c'era la maggioranza. Non è che se... No, certo, ascolti, però mi scusi, Mastrangeli, la Barbara D'Urso non è un talk show televisivo. Le faccio un paradosso. Se si presentavano 10 parlamentari a quella riunione, 6 votavano... e poi non c'era nemmeno la maggioranza in questo caso, ma diciamo che 6 votavano su 10 la mia espulsione, che si andava alla conferma sul web, ma che stiamo scherzando, ma esiste uno stato di diritto in Italia, non siamo mica in Corea del Nord. Questo l'ha già detto, non siamo in Corea del Nord, ma mi scusi, Barbara D'Urso non è un talk show? Cioè ho rilasciato un'intervista televisiva, ho rilasciato un'intervista giornalistico-televisiva alla giornalista Barbara D'Urso. Non ho partecipato ad alcun talk show televisivo, mai. Cioè questa è l'interloquire con altri politici che è vietato, diciamo. No, allora il codice di comportamento scrive testualmente evitare la partecipazione ai talk show televisivi. Io non vi ho mai partecipato. Beh, perché lei dice ero lì ma non interloquivo tra da altri, ma per molti potrebbe essere presentarsi nello studio di un talk show. Uscito da Palazzo Madama mi avessero intervistato le telecamere, poi successivamente avessero preso questa intervista e messa ad esempio nella trasmissione Ballarò, che facciamo? Mi espellevano perché mi mettevano un'intervista all'interno della trasmissione Ballarò, è la stessa identica cosa. Non ho partecipato ad alcun talk show televisivo in tutta la mia vita. Senta, le chiedo questo in conclusione, è vero che lei è un ex poliziotto, credo, delle forze di polizia? Sì, orgogliosamente. Sono un assistente capo della polizia. Perfetto. Di Stato. Che ne pensa del suo collega Movimento 5 Stelle Iannuzzi, che non si è alzato durante il saluto che la Camera ha fatto con l'applauso per il carabiniere Giangrande ferito da Preiti? Iannuzzi lo conosco da anni ed è il peggiore deputato che abbia il Movimento 5 Stelle, peggiore ovviamente politicamente parlando. Perché lo conosco da 3-4 anni benissimo. E che fa? È il peggio che il Movimento 5 Stelle politicamente potesse avere. E perché? Che c'ha? Che fa? Basta seguirlo, seguitelo attentamente. Tutto ciò che fa politicamente è una disgrazia. Una disgrazia. E quindi il fatto che non si sia alzato, secondo lei, non la stupisce, visto Queste cose gli annunci le fa da anni. seguitelo attentamente, vi consiglio di seguirlo attentamente. Va bene, lo seguiremo. Intanto io la ringrazio, senatore Marino Mastrangeli del Movimento 5 Stelle. Con lei concludiamo questa puntata del primo maggio e domani, a maggior ragione, siamo qui. No, siamo a fare festa. No, domani, 2 maggio, siamo qui alle 6.30, domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.